Come on. Giorno e notte faccio a botte con la mia coscienza. Le nocche rotte, sporche e rosse fanno la mia presenza. L'unione fa la forza, amico, ma al mondo non siamo soli, ti dico. Le parole non possono bastare per descrivere tutto il male. E io il male del mondo, il male più profondo, quello che colpisce di notte e di giorno, quello che distrugge la nostra società, quello che un attimo di pausa non ti dà. Reazioni a catena su di me mi distruggono il sistema nervoso. Non riesco a vivere senza di te, senza te sento un gran vuoto. Yo, come on. Siamo fratelli e non avversari. Prego affinché la rabbia possa sparire. Odiare, no, odiare non è normale. Voto perenne, voto che langue. Distruggo la penna e scrivo col sangue. Piange il bimbo, piange, piange ancora. È ora di finirla con questa cantilena. Do un pugno al muro, sì, a muso duro. Il muro è duro, il dolore dura duro. La rabbia ti annebbia, ti acceca la vista. Non riesco a controllarla, chiamate uno specialista. Il male non può trionfare, la rabbia deve cessare. Come on, yo. Rabbia intorno a me. Voglia di te, nasce un sentimento dentro.